Allora, una cosa è sicura, grazie a Dio, questo qui presente è un pubblico molto colto. Adesso però, fatto il complimento, adesso lo mettiamo alla prova. Cinque cose che non sapete sull'Alter Rebbe. Vediamo se qualcuno poi saprà. Un'ulteriore polpetta di mafruma per ogni cosa che saprà. Allora, numero uno. Nel 1788 l'Alter Rebbe fondò il fondo di Tzedakah, Kollel Chabad, per sostenere i Hasidim che avevano fatto l'Aliyah in quel periodo in Eretz Israel, non avevano fonti di sostentamento locali e infatti diversi gruppi di Hasidim, ma anche non Hasidim, seguaci del Gaon di Vilna, fecero l'Aliyah in quel periodo verso Eretz Israel e furono sostenuti dai fratelli rimasti in Europa. Nel corso del tempo si espanse molto, si espansero le attività del fondo del Kollel Chabad ed oggi è uno dei fondi di Tzedakah più importanti in assoluto in Eretz Israel. Dispone di molte cucine sociali, uno dei quali è visibile quando state rivolti verso il Kotel. Se rivolgete un attimino le spalle, vedrete sopra una delle cucine sociali con Kollel Chabad e potete anche andarci e fare un po' di volontariato la prossima volta che sarete davanti al Kotel. Tutti sono benvenuti. Inoltre dispone di molti ambulatori, centri specializzati sparsi nel territorio di Eretz Israel e oltre ai servizi a domicilio a sostegno di vari tipi di attività che offre. In questo periodo della guerra, Kollel Chabad fa parte delle squadre di emergenza del governo israeliano. Molte delle corrispondenze epistolari dell'Alter Rebbe stesso, che sono pubblicate nella quarta sezione dell'opera del Tanya, sono relative alle attività del Kollel Chabad. Questa è la prima cosa. Chi lo sapeva? Niente va a Luca sa tutto. Seconda cosa. Gli otto lumi di Hanukkah, le otto giornate che festeggiamo di Hanukkah. In una delle opere che raccolgono gli insegnamenti hasidici, discorsi orali che faceva Rabbi Shneur Zalman l'Alter Rebbe, l'opera è chiamata Torah Or. In quella opera sulla parasha di Miketz, che spesso corrisponde a una delle settimane di Hanukkah, lì l'Alter Rebbe scrive che gli otto lumi di Hanukkah corrispondono agli otto Nesichei Adam, otto principi, otto guide. Che cosa si tratta? Esiste un versetto nel libro della profezia di Micha, uno dei profeti minori, che dice, è una profezia dell'era riguardante l'era messianica, la venuta del Mashiach, che descrive diversi percorsi e diverse cose che accadranno in quel periodo, e parla del percorso per arrivare fino al Mashiach, e dice che Vakemonu alav shivaroim, vi saranno sette pastori, ushmona nesiche adam, e otto guide degli uomini, otto principi se vogliamo. Ora, chi sono questi sette e chi sono questi otto e qual è soprattutto la distinzione tra i pastori e le guide? Che differenza fa? Normalmente quando si parla di una persona che è un pastore si intende che è guida, quindi perché questa distinzione? Allora guardiamo nella Gemara, nel trattato di Sukkah, alla pagina 52b. Man ninhu shiv'a roim. Chi sono questi sette pastori? E la Gemara elenca sette grandi figure della storia. David Amelech, re Davide. Adam, chi è Adam? Adamo. Shet, non Shem, ma Shet. Shet è figlio di Adam, terzo figlio, quello dal quale deriviamo tutti noi. E poi Metushelah, Abraham Avinu, Yaakov, e l'ultimo dei sette, molto bene, Moshe. Una polpetta. Vabbè, poi vediamo il regolamento. Chi sono gli otto? Chi sono gli otto? La Gemara dice Adam, scusa, non Adam, Adam fa parte dei pastori, scusate. Yishai, il padre di David faceva parte dei pastori, il padre fa parte dei Nesichim, delle guide. Yishai, Saul, Shemuel, Samuele, Amos, Zefania, Zidkia, Umashia, ve Eliyahu Hanavi, bravo. Questo è l'ottavo. Ok, abbiamo fornito alcune informazioni, alcuni dati, ma non abbiamo ancora capito niente. Cosa c'entra con gli otto giorni di Hanukkah e qual è la distinzione tra i pastori e i Nesichim? Qualcuno di voi è interessato a sapere? L'Alte Rebbe spiega in questo approfondimento di Hasidut qual è il senso di un pastore, qual è il ruolo di un pastore. Il ruolo di un pastore è quello di guidare, ma non solo deve guidare, deve assicurare che si alimentino, deve nutrire, deve dare sostentamento e far mangiare, in pratica, in parole povere. Questo è effettivamente il ruolo del pastore. E allora quei tzadikim che sono stati indicati nell'elenco dei pastori sono quelli che hanno avuto e hanno il ruolo di alimentare, di fornire, di nutrire Am Israel, ovviamente dal punto di vista spirituale della Kedushah, ognuno secondo una determinata caratteristica. Ognuno di questi fornisce, nutre Am Israel con qualcosa di differente rispetto all'altro. Per esempio, Abraham nutre il Chesed, la caratteristica della gentilezza, della benevolenza, del bene. Yaakov nutre la caratteristica di Rachamim. Rachamim è una fusione tra Chesed e Gevurah, cioè un rigore che è temperato dal Chesed, dal bene. E così ognuno nel suo modo. Chiaramente, quando arriviamo nel gruppo dei pastori a Moshe Rabbeinu, arriviamo all'apice, perché Moshe Rabbeinu è quello che nutre, che fornisce che cosa? Con che cosa ci alimenta Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu prima di tutto è colui attraverso il quale è stata data la Torah. Torat Moshe. Moshe emet ve Torato emet. La Torah che riceviamo da Kadosh Baruch Hu per via di Moshe, tramite Moshe. Quindi Moshe fornisce questo. Moshe è l'agente per fornire questo da parte di Kadosh Baruch Hu. Questo è il ruolo dei pastori, che però è distinto ed è diverso dal ruolo delle guide, dei Nesichim. In che senso? Nel senso che l'impatto che quei grandi Nesichim hanno sulle altre persone non è un impatto diretto, dove, facendo l'esempio di un Moshe Rabbeinu o una qualsiasi persona che insegna qualcosa, che cosa è la dinamica dell'insegnamento? Tu hai delle informazioni, un insegnamento che trasmetti ad un'altra persona, e questo insegnamento diventa ora patrimonio anche di chi ha ricevuto. Quindi diventa una cosa condivisa che non rimane più presso di te, ma in qualche modo entra a far parte della cultura della persona che ha acquisito quella conoscenza. E quando si apprende qualcosa, soprattutto quando noi stiamo parlando qui di Torah, quando uno apprende la Torah viene paragonata al pane, al cibo. Vetoratcha betoch me'ai. La tua Torah è nei miei intestini, dice il Teilim. Perché? Perché quando tu studi la Torah, tu la devi metabolizzare. Diventa una parte di quello che sei tu e tu diventi in qualche modo un'espressione di quella che è la Torah. Cambia il tuo modo di vedere le cose, cambia il tuo modo di pensare. È qualcosa che tu ingerisci, che entra dentro il tuo interno in maniera molto intima. È intrinseca, grazie. Gli otto Nesichim non è così che funziona, in maniera differente. È come una luce che ti avvolge ma dall'esterno, non dall'interno come la Torah e i sette pastori che nutrono, ma più una cosa trascendente e astratta. Per esempio, dice l'Alter Rebbe in questo discorso, per esempio a volte tu potresti trovarti al cospetto di o in presenza di qualcuno che in qualche modo emana una luce. Vedi uno tzaddik che sta pregando, è assorto ed è avvolto, è dentro di sé, sta nel suo mondo, non ti ha rivolto la parola, non ti ha insegnato assolutamente nulla, appunto non ti ha neanche parlato, ma tu in quella situazione ti senti ispirato. Senti che c'è qualcosa che ti sta dicendo qualcosa, ti senti un po' diverso e quando esci fuori dalle dici devo fare qualcosa, devo diventare una persona migliore. Ma chi ti ha detto niente? Nessuno ti ha detto nulla. Ma cosa è successo? È un impatto quasi secondario, è indiretto, ma è molto molto forte. Questi sono i tzadikim che sono nell'elenco degli otto. Per esempio Yishai, che è il primo nominato in questo elenco, c'è scritto nella Gemara, in un'altra Gemara, la Gemara di Sanedrin, che Yishai era una persona così pura. Due polpette. Così speciale non c'è nessun motivo per il quale avrebbe dovuto lasciare questo mondo, se non per il peccato di Adam Arishon, se non per la colpa del serpe che ha sedotto Chava e Adam a portare la morte nel mondo. Se non fosse per quello non sarebbe mai morto, perché non hanno fatto mai niente che minimamente può essere ricondotto a della negatività. Ma non ha insegnato. Non è andato lì a fare un Bet Midrash, una yeshiva, una scuola. Era nel suo mondo, ma questo stare nel suo mondo in qualche modo ha avuto un impatto fortissimo sull'ambiente che lo circondava, nel quale si trovava. E questo in generale, dice, è la differenza tra Torah e Tefilah. La differenza tra i sette e gli otto, è la differenza tra Torah e Tefilah. Come dicevo prima, Torah viene nel tuo interno. Tefilah è qualcosa che tu chiedi, qualcosa che venga dall'alto. Per questo motivo si può spiegare un episodio molto particolare di cui si parla nella Gemara. Uno dei più grandi maestri di Torah, più grandi conoscitori di Torah, di tutti i tempi. Come si chiamava? Rabban Yohanan ben Zakkai. La Gemara dice che non c'era nulla che non ha studiato e ricordato. In un certo momento uno dei suoi figli, il suo figlio, stava molto molto male, in pericolo di vita e non sapeva cosa fare. I medici avevano ormai detto che avevano rinunciato. Ha detto dobbiamo pregare. Chi può pregare per lui? Ha mandato a dire a uno dei Chachamim di quella generazione, Rabbi Haninah ben Dosa, per favore mandate a dire a lui che preghi per mio figlio. La moglie, la mamma del ragazzo che stava male, si è sentita offesa. Ha detto: marito mio, tu sei Rabbi Yochanan ben Zakkai, Nessia Sanedrin, perché devi mandare a chiedere a qualcun altro per pregare? Con tutto il rispetto, Rabbi Hanina, ma tu sei il papà e sei il più grande, perché lo mandi lì? Ha detto Rabban Yochanan ben Zakkai: io sono come un ministro che entra dal re. Un ministro può vedere il re, ma c'è un protocollo che deve seguire. Non è che può aprire la porta senza bussare o senza fissare un appuntamento o senza comportarsi in una determinata maniera. Rabbi Hanina è come un servo che lavora dentro il palazzo reale e entra e esce quando e come e dove gli pare. Allora è meglio che lui va a bussare alla porta. Questo, dice l'Alter Rebbe, è la differenza tra Torah e Tefilah. Rabban Yochanan ben Zakkai rappresentava Torah, Rabbi Hanina ben Dosa, che si racconta grandissime cose di lui, si raccontano nella Gemara, ma non è menzionato neanche una volta nella Mishnah per dare un qualsiasi insegnamento di Halakha. La differenza tra Torah e Tefilah. La differenza tra i pastori e le altre guide. Quando è accaduto il problema che ha portato poi alla festa di Hanukkah e alla vittoria di Hanukkah, riconducendo al punto di partenza, la guerra era tra le due culture, la cultura greca, la cultura ellenica e la cultura della Torah, l'intelletto ellenico e l'intelletto della Torah. Per combattere qualcosa, per sconfiggere qualcosa, bisogna cercare di trovare un'arma che l'altra parte non ha. Non è possibile necessariamente sconfiggere se le due parti sono più o meno uguali. Serve qualcosa di sconvolgente. E allora combattere con soltanto l'intelletto non era sufficiente. Serviva qualcosa, il potere della tefilà, il potere di quei otto di cui parlavamo. E questo è simboleggiato nella piccola ampollina d'olio che hanno trovato. L'olio rappresenta l'essenza della cosa, l'essenza che è immutabile e che è la fonte di tutto. Questo è il motivo per cui gli otto giorni, gli otto lumi e giorni di Hanukkah corrispondono agli otto Nesiche Adam, alle otto guide di cui abbiamo parlato. E questo è il secondo punto. Altri 44 minuti. Forse. Terzo punto. Vogliamo fare il terzo punto? Con calma, ha detto Claudio. Terzo punto. L'Alter Rebbe è stato menzionato già stasera, quindi non vale per le polpette. L'Alter Rebbe era una massima autorità halachica. Infatti le sue opere di halakha, sia lo Shulchan Aruch Harav che il Sidur, che altre opere, Shelot v'Tshuvot, vengono citate fino ad oggi dai possekim, i decisori di halakha. Interi paragrafi, per esempio nell'opera Mishnah Berurah del Chafetz Chaim, sono citazioni dello Shulchan Aruch dell'Alter Rebbe. Così come la sua opera è una delle quali, sulle quali si basa l'opera del Kitzur Shulchan Aruch di Rav Shlomo Ganzfried. Per apprezzare la profondità, le conoscenze e la chiarezza dell'Alter Rebbe, anche Ben Ishchai cita molto, dell'Alter Rebbe si richiede sicuramente una grandissima e profonda conoscenza dell'Alha solo per apprezzare quello che sta dicendo. Comunque vi porto, se volete, due esempi che potranno illustrare un po' questo aspetto qui dell'Alter Rebbe, molto, diciamo, in minima parte. Tutti conosciamo l'opera dello Shulchan Aruch. Chi è l'autore dello Shulchan Aruch? Molto bene, Rabbi Yosef Karo. L'Alter Rebbe ha scritto un'opera di Halakha anche intitolata con lo stesso nome, Shulchan Aruch. Lo chiamano Shulchan Aruch Arav, perché in Polonia l'Alter Rebbe era conosciuto come il Rav per eccellenza. Arav. In ogni caso, lo Shulchan Aruch, come scopo dell'opera dello Shulchan Aruch, qual è? È quello di sapere come mettere in atto le regole. Qual è la regola? Mi sveglio la mattina, cosa devo fare? Lo Shulchan Aruch ti dice cosa devi fare. Non è lo stesso lo scopo dello Shulchan Aruch dell'Alter Rebbe. Lì lo scopo è diverso, lo scopo è la conoscenza dell'Alaha. Qual è la differenza tra sapere cosa devo fare e la conoscenza dell'Alaha? Tu mi dirai. Allora, te lo spiego. Per esempio, molto spesso chiunque studia l'Alaha o qualsiasi normativa riconosce che la legislazione, la norma, prevede un comportamento idoneo a priori. Cos'è che devi fare? Questo è il modo ideale in cui dovresti fare. E anche un'apertura verso, in seconda battuta, a posteriori o a cose fatte o in una situazione di difficoltà, va bene anche così, bediavad, a posteriori. In quasi tutte le halakot ci sono questi due aspetti. Allora, quando io voglio scrivere un codice di norme, di legge, cosa metto prima, l'ideale o la seconda battuta? Dipende cosa è lo scopo dell'opera. Se, come lo Shulchan Aruch di Rabbi Yosef Karo, lo scopo è di dirmi cosa devo fare quando sveglio la mattina, subito mi mette l'ideale. Al contrario, se lo scopo è quello di farmi conoscere, scusate il termine, le budella dell'Alaha, cioè cosa c'è dietro, cosa è il processo per il quale si arriva a determinate conclusioni, allora in realtà si farà il contrario. Perché il contrario? Perché ciò che va bene a posteriori in realtà va bene, perché se non andasse bene allora mi direbbero non si può. Ma non mi dicono non si può, mi dicono va bene se non ce l'hai fatta a farlo nel modo ideale. Allora va bene o non va bene? È ovvio che va bene, solo che va bene, però dovresti farlo in maniera migliore. Ma va bene. E di conseguenza, ecco l'esempio, prendiamo un halakha. Ah, beh, basta. C'è un po' di Shivas? Ho capito. Fine. Allora, vogliamo sentire l'esempio? Se no, non c'è problema. Facciamo i colli fortuenti. La mattina. Silenzio! La mattina facciamo la tefilà di Shacharit. Da che ora? Da che momento in poi abbiamo la possibilità e quindi l'obbligo di fare la tefilà di Shacharit la mattina? Leggiamo lo Shulchan Aruch, quello originale. Rabbi Yosef Karo scrive: Zeman tefilat shachar, orario, il momento della tefilà della mattina, mitzvata, il suo obbligo è, o il suo modo migliore di fare è shiatchil im hanetz hakama, è di iniziare la tefilà esattamente insieme allo sorgere del sole. Poi, attenzione, veim itpallel mishe'ala muda shachar, chiazza. Se però uno avesse pregato dall'alba in poi, quindi non attendendo il sorgere del sole, ma già che c'è prima del sorgere del sole, già c'è un po' di luce al momento dell'alba. E allora se uno avesse pregato con l'alba e non attendendo il sorgere del sole, yatsa, è uscito l'obbligo. Molto bene, ha messo prima l'ideale e poi a posteriori. Se leggiamo lo Shulchan Aruch dell'Alter Rebbe, vediamo che lo scopo dell'opera è un altro. Prima di tutto ci dice qual è la mitzvah e perché, cosa c'entra con questo orario. Usmana tefilot ukismana temidin, dice, le tefilot, gli orari delle tefilot seguono gli orari dei temidin, cioè dei sacrifici, delle offerte quotidiane che venivano offerte nel Beit HaMikdash. Quando è l'orario del tamid, dell'offerta mattutina, c'è tamid c'è shachar zmano matchil mi she'ala amuda shachar, il suo momento inizia, l'obbligo del tamid della mattina, da quando c'è l'alba, non da quando sorge il sole, da quando inizia l'alba. Kodem hanetzach ha'ma, prima che sorgesse il sole, e la solamente, quindi prima la cosa base, e la solamente, cioè ayum amtinim acheir, l'uso nel Beit HaMikdash era quello di attendere finché non si illumini totalmente l'orizzonte, kol penea mizrach ache bechevron, finché si vede Hebron da Yerushalayim, quindi il sorgere del sole. Di conseguenza, gam tefilata shachar, come il korban, come l'offerta del tamid, anche la tefilà della mattina segue lo stesso schema, ovvero zmana matchil me'amuda shachar, il suo tempo, quindi c'è già la validità totale della tefilà, da quando? Dall'alba, prima del sorgere del sole, e la shele katchila, solamente che per fare le cose fatte bene, mitzvah le'atchil imanetzach ha'ma, è bene iniziare con il sorgere del sole, al contrario, esatto, col sorgere del sole, dehainu achar yetziata, cioè dopo che esce il sole, non prima, come è detto, eccetera, eccetera. Quindi vediamo anche nel modo in cui decide di redarre, diciamo così, l'alaha, in una maniera estremamente pensata e profonda. Avevo un secondo esempio, non lo farò, passo direttamente al numero 4. Chi vuole il secondo esempio potrà venire ai Colli Portuensi. Il numero 4. Il numero 4. Allora, signori, sono gli ultimi due, sono molto brevi, però richiedono un certo decoro. L'Alter Rebbe, non so se sapete, effettivamente la presentazione è intitolata 5 cose che non sapevate, quindi vediamo. L'Alter Rebbe era un grande genio non solo della Torah, ma anche della musica. E noi abbiamo una tradizione tra i Hasidim di 10 melodie che l'Alter Rebbe scrisse e cantò, e cantava. Alcuni sono canti elaborati, altre sono brevissime melodie, tutte sono profondissime. Una unisce due versetti che sembra non c'entrino niente l'uno con l'altro. Uno è il versetto del Teilim, è scritto nel Salmo Mem Bet 42, che ayalta aroga lefike maim, che nafshita aroga lecha elokim. E cioè, così come il cervo va a cercare le fonti d'acqua nel deserto, così anche io, dice David HaMelech, sono assetato di te, Signore HaKadosh Baruch Hu, Samman Afshir Elohim. Questo è un versetto. Secondo versetto, che tutti conoscono, molto noto, Vehayu le totafot ben enecha. Cosa vuol dire Vehayule Totafor ben enecha? È riferito alla mitzvah di mettere i tefilin. E l'Alter Rebbe cantava in questo modo: che ayoltaro ed alafike mo'oyim veho voyule toitofois bene necho. Cosa c'entra una cosa con l'altra? La sete verso HaKadosh Baruch Hu e mettere i tefilin. Questo è il cuore dell'insegnamento dell'Alter Rebbe che forse ha voluto trasmettere nella Chassidut. E cioè che da un lato la persona dovrebbe andare a cercare a Kadosh Baruch Hu come se non ci fosse nient'altro al mondo, dimenticando di tutto. Un amore così profondo che non può pensare a nulla d'altro. Al tempo stesso, quell'amore ha tradotto nell'atto concreto. Mettere i tefilin, fare la mitzvah concretamente, in maniera tangibile. L'unione tra l'anima e il corpo, la profondissima e vera unione tra anima e corpo. Quinto punto, e qui dovrete pagare. L'Alter Rebbe insegnò, a nome del suo maestro, il Magid Rabbi Dov Berdi Mezrich, il quale glielo ha insegnato a nome del suo maestro, Rabbi Israel Baal Shem Tov, e gli ha detto questo: Ve'ahavta le'reacha kamocha, la mitzvah, nella parasha di Kedoshim, è scritto: ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi la mitzvah di amare il prossimo è una interpretazione, una spiegazione della mitzvah che è scritta nel libro di Devarim, che anche questo è un versetto molto noto: Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Quando diciamo Ve'ahavta et Hashem Elokecha? Quando non lo diciamo? Tutti i giorni, almeno due volte, nello Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Allora, Ve'ahavta et Hashem Elokecha vuol dire ama il Signore tuo Dio. Poi c'è lo stesso termine Ve'ahavta, ama, però rivolto alle altre persone. Ve'ahavta le'reacha, ama il tuo prossimo. Spiegò il Baal Shem Tov, riportato dall'Alter Rebbe, amare il tuo prossimo come te stesso è la spiegazione del versetto ama il Signore tuo Dio. Cosa vuol dire? Signori e signore, è molto molto molto semplice, così semplice che non ci pensiamo neanche. Immagina due persone che si vogliono un mondo di bene, che si amano. Non c'è un amore più grande dell'amore tra queste due persone. Un giorno una di queste persone viene dall'altra e gli dice: tu sai quanto ti voglio bene, tu sai che non c'è niente al mondo che voglio più, voglio meglio di te, più bene che te. Ma i tuoi figli non li posso vedere, li odio, non li posso assolutamente vedere. Facciamo una distinzione tra te e i tuoi figli. Qual è la reazione? Qual è la reazione di quella persona che gli viene fatta questa affermazione? Ecco la porta, please. Questo è il significato. A Kadosh Baruch Hu ci di, il Baal Shem Tov ha spiegato. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ama il Signore tuo Dio. Sapete cosa? Molti chiedono: come posso amare? Come? Questa è una delle mitzvot più facili in assoluto. Perché? Perché se non viene in qualche modo tradotto in qualcosa di concreto, ognuno può dire amore. Siamo a Roma, la religione del... è facile, non costa niente. Allora Kadosh Baruch Hu ti dice Ve'ahavta et Hashem Elokecha? Vediamo, vediamo come sei messo nel Ve'ahavta le'reacha kamocha. Questa è la prova, è lì che dobbiamo pagare e dimostrare. Quando possiamo dire di amare il prossimo, di dire non c'è nessuno che non posso vedere, non c'è nessuno che posso, chas v'shalom, mai sia, escludere, allora possiamo accettare le tue parole quando dici Ve'ahavta et Hashem Elokecha. L'chaim, l'chaim.